24 mattino, l'Italia si desta. Ho spiegato su Facebook perché non giocherò alla partita del cuore, quindi può tirare tranquillamente Baci, si può tirare tranquillamente Roberto, Ale. Tutti più tranquilli? 6:33 minuti, buona giornata da Anna Migliorati, cominciamo anche questa giornata di Radio 24. Avete sentito il Renzi di giornata, tutti più tranquilli, la partita del cuore non la giocherà. Buongiorno ai nostri ospiti intanto di questa mattina, Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, benvenuto. Buongiorno. Silvia Brasca, giornalista della 7, buongiorno, ciao Silvia. Non l'abbiamo, caduta. Cominciamo bene questa giornata, va bene? 349-238-6666, il numero. Vi ricordo come sempre per i vostri sms, mentre Peter Bescapè è già prontissimo a ritrovare anche Silvia Brasca. Intanto Massimo De Manzoni, sentito Renzi ieri, era diventato un po' un tormentone, pare che non s'abbia da fare sta partita. Che ne pensi? Che ti è parsa questa polemica? Ma è una polemica che ci riporta a parlare finalmente della par condicio. Posso chiedere a Bescapè se mi toglie anche, mi torno. Allora, Bescapè, questa mattina dobbiamo offrirgli un caffè. Ci siamo? No, sì. Dicevo, la par condicio è una legge assurda che ci tormenta da una ventina d'anni praticamente. E fino adesso a lamentarsi sono stati solo praticamente nel centrodestra, perché avevano un grande comunicatore e la legge era pensata appunto per mettergli un po' di bavaglio e impedire che sotto elezioni imperversasse, diciamo così. Adesso che hanno un grande comunicatore anche a sinistra, scoprono i risvolti più grotteschi di questa legge. È evidente che è un'anomalia in un paese democratico, in un paese che non pensi che tutti i suoi cittadini sono dei deficienti che corrono a votare solo perché vedono uno sgambettare assieme a Roberto Baggio in mutande. Detto questo, una volta che c'è la legge, la si applica, si è applicata per 20 anni, la si continua ad applicare. Quello che non ho sentito nelle lamentele di Renzi e dei suoi in questi giorni è proprio questo. Un chiamare in causa la legge, ma parlare solo di chi chiede di applicarla, magari ottusamente, magari stupidamente, ma è la legge che è sbagliata, non chi dice guardate che c'è una legge e tu non puoi entrare in campo assieme a Baggio a 6 giorni dalle elezioni per farti bene. Tra l'altro avete appena sentito poco fa Radio 24, noi manderemo anche in onda un confronto tra quelli che poi sono i candidati veri alla presidenza della Commissione Europea, ma fare un dibattito del genere in Italia sappiamo che ultimamente è stato praticamente impossibile. Abbiamo ritrovato Silvia Brasca, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoti, hai seguito anche tu questa querelle sulla partita che ormai quasi catalizzava le attenzioni, quasi come la Champions League. Sto dicendo una cosa terribile, mi insulteranno i nostri ascoltatori questa mattina, però insomma si è parlato più di questa partita del cuore che di molti altri temi in questi giorni. Purtroppo sì, poi dopo non ci si lamenti che Renzi sta troppo in televisione, perché questa qua mi sembra anche un autogol del Movimento 5 Stelle. E ricordiamoci che quando Grillo, diciamo, scese in campo, Grillo era ovunque, ce lo ricordiamo esattamente così come Renzi ora. Mi riferisco anche alle bacchettate della 7, no? Sulla 7 da parte di Agcom, per esempio. Come no? non difendo d'ufficio la rete, dico che però certo, devo dire, pesare tutti col bilancino è un lavoro complicatissimo, chi ci ascolta a volte non si rende conto. È una legge complicatissima, è una legge sbagliata che viene da un sistema sbagliato, fu un riparo, un sistema televisivo sbagliato al quale non è mai stato poi messo un argine, se non con questa legge qua, e adesso la paghiamo tutti. E adesso, perché anni fa si cambiava il nome da Renzi in Berlusconi, ed era fatto. La storia era la stessa, non sarebbe stata. Adesso, Come? L'abbiamo pagata tutti per 20 anni, non è che la paghiamo solo adesso questa legge. No, certo, certo, l'abbiamo pagata. L'abbiamo detto da mo', che. Sì, certo, l'abbiamo pagata in termini. Campo, non si poteva dire, tutto qui. Allora, due tifoserie anche nei giorni scorsi tra i nostri ascoltatori, 349-238-6666, insomma, secondo voi si doveva o non si doveva fare questa partita? C'è un'altra partita che intanto interessa tutti, allora anche qui do un'occhiata ai giornali, i temi della giornata sono anche oggi diversi. Allora, sui conti correnti, tassa da 755 milioni, il testo dei famosi 80 euro è arrivato al Quirinale, quindi insomma c'è, è stato firmato. Pare che a questo punto gli 80 euro arrivino tra i redditi tra gli 8 e i 24 mila euro, ma arrivano anche invece altre tasse per tutti. Anche qui stuzzichiamo un po' al vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Che ti pare? Mi pare che intanto è un argomento che noi stiamo sollevando da un bel po' di tempo, fino adesso è rimasto un po' sepolto, diciamo così. Il Sole 24 Ore lo tira fuori con molta forza oggi, perché sono 2 o 3 giorni che il Sole 24 Ore attacca con molta forza Renzi. E il Sole 24 Ore attacca con molta forza Renzi perché Confindustria, che è l'organizzazione nel quale il Sole è poi il portavoce, è l'organo ufficiale, è molto arrabbiata con Renzi perché sta vedendo che la sua apertura di credito non ha avuto risposte sul piano degli interessi delle aziende. Abbiamo visto appunto la tassa sulle rendite, abbiamo visto l'IRAP che doveva essere appunto uno sgravio per le imprese e che è stata vanificata in buona sostanza con delle clausole di salvaguardia per le quali per quest'anno almeno sarà poco più che una mancia. Abbiamo visto che anche il bonus ha avuto delle belle difficoltà e non è un vero sgravio fiscale. Abbiamo visto che soprattutto le imprese sono state chiamate a sacrificarsi ulteriormente perché Renzi ha imposto che pagassero in 3 anni, in una rata solo, le 3 rate di ammortamento che erano state previste dalla legge precedente, e quindi le 24 ore comincia a fare le pulci al governo e ha tirato fuori una cosa che noi abbiamo subito stigmatizzato. Attenzione che sulle rendite finanziarie saranno affangate per i piccoli risparmiatori. Allora, un altro Renzi di giornata. Ho preso impegno con partite IVA, incapienti e pensionati di proseguire nel lavoro iniziato con i dipendenti di abbassamento tasse. Ma siccome parlavamo prima anche di par condicio, vi faccio sentire anche un Berlusconi di giornata. Guardate che io sono stato assegnato ai servizi sociali, non imprigionato da fotografi e caporeporti. Non me l'hanno data questa cosa. Cosa ha firmato, Presidente? Allora, Silvia, stiamo un po' saltando da un tema all'altro, ma la discussione si anima, vedo anche con i nostri ascoltatori si sono svegliati, il caffè l'hanno bevuto a questo punto. Questo era Berlusconi, ieri è stata una giornata comunque che ha segnato una svolta, questo è indubbio anche così, visivamente. Eh sì, perché appunto bisogna dire dove sono state colte queste frasi, che cosa aveva quei fogli che aveva in mano Berlusconi. E certo, è stata per lui una giornata, ha reagito secondo me bene, cioè gli ho visto un gran piglio, però se leggendo anche oggi i giornali, tra l'addio di Bondi e lui dal retro, perché quell'ufficio dove è andato a firmare insomma il patto per il suo affidamento ai servizi sociali è a 100 metri da San Vittore, insomma Anche qua, insomma, sono i nodi che alla fine sono venuti. Poi sono le immagini anche qui che a volte segnano, nel senso che la sentenza, si è detto, si è discusso, si è parlato, certo, vederlo ieri lì, come giustamente dicevi tu, ha fatto un altro effetto. Certo, sarà un altro quando lo vedremo entrare, forse lunedì, a Cesano Boscone, perché a me è sempre fatto, sai, seguito la vicenda giudiziaria lunghissima. Tu l'hai seguita molto. Insomma, alla fine poi dopo si può rimandare, gli avvocati possono rimandare, fare di tutto, ma poi alla fine è implacabile. La lentissima giustizia italiana, alla fine, comunque quel conto lo presenta. La stessa cosa, secondo me, faccio sempre il paragone con Fabrizio Corona, che era uno che sì, tanto, poi sì, faccio, poi chiederò di qua, e alla fine in carcere ci è andato, perché sarà lentissima, ma alla fine arriva. Alla fine siamo qua un mese dalle elezioni con Berlusconi, ripeto, a 150 metri dal carcere di San Vittore, in quel luogo simbolico, e Forza Italia in quello stato. Insomma, a me fa abbastanza impressione, perché appunto, seguendolo, avendo seguito tutte le sue vicende per anni, vedere questo sfaldamento, insomma, mi davvero colpisce. È un'immagine. Colpisce. È un'immagine che in qualche modo segna una svolta, comunque la si voglia vedere. Massimo De Manzoni, non bastavano i servizi sociali, non bastava Bonaiuti, anche la vicenda Bondi ieri. Voi oggi, tra l'altro, in prima pagina ci puntate parecchio. E lì dietro che storia c'è? Ma lì c'è, come diceva Silvia un attimo fa, c'è uno sfaldamento nel partito oggettivo. Che c'è, e poi ci sono dei fatti personali apparentemente, perché Bondi, che è sempre stato il più fedele, più pronto a difendere Berlusconi al di là del Berlusconi stesso, abbiamo ancora negli occhi il suo intervento appassionatissimo al Senato, in cui stava annunciando che Berlusconi e Forza Italia, anzi il PDL allora, avrebbero tolto l'appoggio al governo Letta, e un attimo dopo fu smentito in diretta dal suo principale. Certo. Che disse no, noi glielo diamo. Cioè, abbiamo in mente questo Bondi. Ora, che questo Bondi alla vigilia delle elezioni, anzi in piena campagna elettorale, faccia una lettera suicidio come quella di ieri alla stampa. In cui si batte il petto, dice abbiamo sbagliato tutto, adesso dobbiamo stare con Renzi, alla vigilia appunto della cavalcata elettorale del suo partito, di cui tra l'altro lui è stato coordinatore, quindi mica uno di quelli che passava di lì, era uno di quelli che aveva la responsabilità appunto anche di guidarlo e di dargli un indirizzo politico, volendo, segnala tante cose, segnala lo sfaldamento del partito, ma segnala anche qualche problema nella testa di Bondi, nel mio modo di vedere. 24 mattino. Forza Italia, in fondo, l'abbandono di Sandro Bondi, e dice. Ma lei pensa che agli italiani possa interessare l'ultima notizia? Agli italiani interessano i contratti di lavoro, la disoccupazione giovanile, agli italiani interessano queste cose. Se voi siete così perversi da cercare nei ritagli di giornale queste cose, io vi faccio gli auguri. Agli italiani interessa la disoccupazione al 14%, agli italiani interessano le tasse, cioè non pagarle o pagarne il meno possibile. Ed ecco anche il brunetto di giornata, Silvia Brasca. Forse l'uno e l'altro ci interessa. Certo, adesso capisco che dovesse spostare l'attenzione il fatto che appunto si arriva alla disoccupazione al 14% tramite politiche che fanno i partiti. Questo ormai. Ecco, quindi no, cioè, capisco che nel dibattito, però insomma, un pezzo da 90 come è stato Bondi, sono d'accordo con Massimo sul fatto che ci sia dietro, e lo si vedeva, insomma, qualche aspetto psicologico, insomma, di una persona che viveva la politica sicuramente in modo non razionale, personale, diciamo. Ecco, poi ultimamente davvero sembravano lui e la compagna, un po' Luisa ferita, Osvaldo Valenti, insomma c'era qualcosa che nei due, e anche qua il nodo è venuto al pettine, cioè, adesso sarà interessante vedere cosa fa, se può interessare, ecco, se può interessare, forse Bondi senza Berlusconi davvero non so come riesca a stare in piedi. Dice, le devo riconoscere grande dinamicità, velocità inattesa e nuova nella politica, spiazza gli avversari. Quanto può reggere? Che fa? Porta sfigala, cioè, che fa? Porta iella. Spero tanto. Regge il governo Renzi? Ieri il premier Massimo De Manzoni è stato, il suo modo di comunicare è questo, lo stiamo via via assorbendo. Comunicatore straordinario. La domanda politica è più difficile invece a cui dare una risposta, perché regge se vuole reggere. Adesso vediamo, molto dipenderà dal risultato delle europee e da quello che vorrà fare subito dopo Renzi, perché Renzi ha fatto tante cose fatte bene dal punto di vista della comunicazione, però ha realizzato pochissimo in questo lasso di tempo. Alcuni nodi, è riuscito a fare il bonus 80 euro e quello è fondamentale per lui, però altri nodi stanno per venire al pettine. Però ha fatto un errore, non ha fatto provare in velocità la legge elettorale come avrebbe dovuto fare, per cui ha un'arma scarica in mano. E forse in quello si è un po' sopravvalutato. Forse in quello un po' si è sopravvalutato. Vi faccio cambiare tema. Siamo ancora 5 minuti, ce l'abbiamo. Per cui c'è una notizia che mi ha colpito, ma neanche più di tanto. Il Fatto Quotidiano oggi scrive: i due papi santi, la ressa dei politici imbucati. Tanto per dire che cambiano le facce, ma forse non tanto le abitudini. Domenica ci sarà la beatificazione di Roncalli e di Wojtyla, tra l'altro poi lo vedremo anche in rassegna stampa, il New York Times si è scagliato contro la beatificazione di Wojtyla andando un po' fuori dal coro. Allora, centinaia i biglietti chiesti, Pagano, Nuovo Centrodestra, Buttiglione, UDC e poi ancora Renzi, Lupi, Mogherini, Boschi, è stata una corsa. Platea anche questa, Massimo? Sì. Siamo ancora dalla Formula 1 piuttosto che la partita o la beatificazione dei papi, siamo ancora alla vetrina? Sì, non ho mai voluto andarsene dalla vetrina, i politici italiani hanno bisogno, poi sotto le elezioni, ripeto ancora una volta, un po' di visibilità è fondamentale, non è neanche sbagliato in assoluto, poi è chiaro che il politico ha bisogno di farsi vedere, ha bisogno di comunicare, e come si diceva prima, magari sì, Brunetta voleva coprire una magagna, però ha anche detto giusto, la gente poi forse in questo momento interessano più parole o azioni dirette sull'economia, più che vedere un politico in prima fila quando il Papa proclama la beatificazione di altri due papi. Però è umano, ecco, non mi sembra la cosa peggiore che stanno facendo. Assolti per questo, insomma. Almeno per questo. Visto il tema, sì. Allora, un'altra notiziola, giusto per fare ancora qualche commento. Le toghe si dimettono per salvare lo stipendio, scrive il giornale. Anzi, per la verità, è Panorama che svela che 12 giudici si sono prepensionati alla Corte dei Conti per evitare i tagli. Silvia, mentre parliamo di 80 euro... Adesso no, qui non sono 80 euro di tagli. Fa bene Mulè, perché per carità, lo sappiamo, insomma, le campagne contro, ma insomma sono uomini anche loro, e sui magistrati l'hanno fatto, sta colpendo tutti. Cosa vogliamo dire? anche loro, cioè l'ha scritto Panorama, sappiamo anche perché, e se è così siamo lì. Siamo in campagna elettorale, lì. Ritorniamo ancora agli inizi. Massimo De Manzoni, non c'è niente da fare. Non riusciamo a leggere nulla se non in campagna elettorale. Sì. No, io di questa notizia non capisco una cosa, proprio mi sfugge, ma adesso l'approfondirò, ma dov'è il vantaggio per i giudici di difenderle, di mettersi nel momento in cui si fanno i tagli? A meno che non siano gli unici che sono rimasti col sistema retributivo invece che quello contributivo e quindi vanno in pensione con l'ultimo stipendio, io non vedo che vantaggio ne abbiano. Ecco. E quindi sei d'accordo anche tu che viene letto un po' tutto in tema di campagna elettorale? Siamo partiti dalla partita del cuore, siamo arrivati qui, ma non c'è niente da fare quando si arriva vicini al voto, che se ne dica è tutto voto? Ma questo sicuramente, gli italiani poi sono dei tifosi, non sono dei cittadini, quindi la campagna elettorale poi la vivono come la partita. Però è proprio nel merito della notizia che vorrei entrare. Io non capisco. C'è un altro privilegio sconosciuto ai più per i quali i giudici vanno in pensione con il metodo retributivo invece che con il metodo contributivo come fanno tutti gli italiani. Questa è una cosa da approfondire probabilmente. L'approfondiamo, ecco. Ti lasciamo il compito di giornata, poi ti richiameremo così ce lo spieghi bene. Anche questo, il compito della giornata. Nel frattempo siamo arrivati alla fine, vedo che già dalla regia mi fanno segno perché c'è GR24. Io già vi anticipo che anche oggi siamo in giornata così di ponte, quindi arriviamo fino alle 9:30 con 24 mattino. Parleremo di tagli alle regioni, dove risparmiare, e poi parleremo di eurodeputati, chi mandiamo in Europa, per fare cose in Europa siamo presenti o no. Questo dopo il GR24 delle 9. Qui per il momento invece ci fermiamo. Silvia Brasca, giornalista della 7, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, ti lascio tornare ad approfondire allora. Grazie, buona giornata. C'è GR24, noi ci risentiamo subito dopo con i giornali di oggi. 24 mattino. Ci ritrovati 7:18 minuti da Anna Migliorati, ancora una buona giornata, pronti con i giornali in edicola per una carrellata anche oggi di quelli che sono i temi, i dibattiti, le polemiche, le notizie sui giornali di oggi. Allora, cominciamo ancora a parlare di tasse, degli 80 euro, ma non solo, perché il testo è arrivato al Quirinale e quindi ora è tutto nero su bianco. Il Sole 24 Ore quest'oggi il titolo: sui conti correnti tassa da 755 milioni, bonus pieno di 80 euro per i redditi tra 8 e 24 mila euro, ma il testo al colle, il peso dell'aliquota al 26% sui depositi nel 2005, pagamenti della pubblica amministrazione a 5 miliardi. Si fanno i conti, un focus sul decreto Renzi con tutte le misure, chi ci guadagna e chi ci perde in sostanza. Il Corriere della Sera: bonus da 80 euro, anche qui ecco il decreto, tasse giù anche per le partite IVA, l'annuncio del Premier ieri su Twitter, il lavoro passa la fiducia. L'altro tema di giornata di cui si parla molto, Berlusconi, il giorno dei servizi sociali, ha firmato da lunedì la rieducazione. In Forza Italia scoppia il caso Bondi, e poi a centro pagina il caso Stamina sul Corriere della Sera. I PM, pazienti come cavie, attrici al posto dell'infermiere, una illusione durata 7 anni. Ne parleremo più avanti. E poi statali, tagli, assunzioni mirate, l'apertura del Messaggero, vertice con Renzi e Madia, 3 miliardi di risparmi, nuovi criteri sul fronte degli esuberi. La Repubblica, riforma del Senato, fronte anti-Renzi, da Forza Italia al PD. E poi Eugenio Scalfari che scrive: caro Paduan, facciamo gli scongiuri. E a ancora riforme la partita più difficile, così il titolo di apertura scelto dall'Unità, che mette come immagine in centropagina l'intesa su Piombino. Si apre una speranza, la riconversione delle acciaierie. Il secolo XIX ha un'intervista oggi, l'Europa dei tagli ha fallito, al leader del Partito Socialista Europeo, il candidato più forte alla presidenza della Commissione Europea, Martin Schulz. Fisco e famiglia, si cambia, così l'Avvenire. Truffa in rete, la Padania durissima, Renzi twitta le promesse, ma sulla Gazzetta Ufficiale arriva la fregatura: assieme alle rendite finanziarie saranno tassati anche gli interessi sui conti correnti bancari e i depositi postali. La Stampa, stamina. Pazienti come cavi, e questa è l'apertura, il tema su cui sceglie di concentrare l'attenzione oggi il quotidiano di Torino. Anche qui vi segnalo l'immagine invece a centropagina, la trovate un po' su tutti i quotidiani, la Stampa ha deciso di metterla in grande evidenza. Siamo a 2 mesi ormai dall'avvio dei mondiali e Rio è un'attesa di sangue per i mondiali. L'uccisione di una star della TV scatena la rivolta, la polizia ripulisce le favelas, la città è blindata, la protesta nel quartiere di Copacabana però sta facendo vittime, così la Stampa a 2 mesi dai mondiali, un Brasile non certo tranquillo. Il Fatto Quotidiano, Renzi Grillo ne resterà soltanto uno, così ancora in tema di campagna elettorale, e poi ancora l'attenzione sulla famosa partita di Emergency, il Premier non ci sarà, scrive il Fatto Quotidiano, che in questi giorni ha battuto molto su questo tema e su questa polemica. Ingiustizia è fatta, Berlusconi non è più libero, così scrive il giornale in apertura quest'oggi. Libero, approvato il decreto Camusso, il decreto lavoro, così ribattezzato da Libero, tutti gli uomini CGIL che comandano nel PD, e poi anche qui il caso Bondi, il maggiordomo di Silvio si offre al signore di Firenze, un titolo che punzecchia Bondi, quello oggi di Libero. Il Manifesto, 80 rabbia, il governo ci offre 80 euro al mese, ma se restiamo senza lavoro a che servono? L'immagine sul Manifesto di quest'oggi è delle acciaierie di Piombino. Così come sempre la carrellata dei temi, ma veniamo anche ai commenti, alle analisi e anche alle notizie nelle pagine interne dei quotidiani. Allora, dicevamo, il Sole 24 Ore punta quest'oggi sulle tasse sui conti correnti, anche questo nel provvedimenti, non solo gli 80 euro varati dal governo Renzi, dei 3 miliardi attesi nel 2015 dalla stretta sulle rendite finanziarie, 755 milioni, scrive il Sole 24 Ore, arriveranno da interessi per depositi e conti correnti. L'ambizione del Premier, la dura realtà dei numeri, i tagli necessari, scrive il commento su Sole 24 Ore quest'oggi a firma di Guido Gentili. A fronte di un'onda montante su Twitter con le risposte live del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in maniche di camicia e un finale ciao a tutti, ci vediamo alla prossima, così scrive Guido Gentili, la relazione tecnica che accompagna un decreto legge, il DL Spending Review, fa la parte dello scoglio impossibilitato ad arginare il mare, come da celebre canzone di Lucio Battisti, quelle delle discese ardite e delle risalite. Eppure anche questo testo arido, prosegue ancora Gentili, nel giorno in cui il capo del governo si impegna ad abbassare le tasse per le partite IVA, gli incapienti e i pensionati, mantiene una sua utilità. A ben vedere, niente affatto marginale, serve a riportare tutti coi piedi per terra. Insomma, i conti in qualche modo si devono fare e i soldi da qualche parte devono arrivare. E dicevamo, scrive invece sulla prima pagina della Repubblica Eugenio Scalfari una lettera al ministro Padoan, facciamo gli scongiuri, uno scambio così di lettere tra i due, e andiamo nelle pagine interne, così scrive Scalfari. La prima, due appunti rivolti al ministro dell'economia da Scalfari. La prima riguarda appunto l'equità, Leggiamo: lo spot degli 80 euro ha trascurato i non capienti sotto gli 8.000 euro di reddito, i pensionati con modestissime pensioni, le partite IVA dei cosiddetti autonomi. C'è un buco non colmato che forse lo sarà nel 2015, senza però che ve ne sia certezza. Così come non v'è certezza ad una riforma degli ammortizzatori sociali, cioè del nuovo welfare. La seconda questione, scrive ancora Scalfari, riguarda invece il pagamento di 20 miliardi dei debiti allo Stato, dei quali 8 alle aziende e gli altri comuni e regioni debitrici, un flusso di liquidità preziosa per l'economia italiana. E allora eccolo il nodo, anche qui da Scalfari. Benissimo, ma dove si prenderanno i soldi debitori per rispettare i loro impegni? Tutto riposa sulla presunzione che gli 80 euro in busta paga aumenteranno la domanda, cioè i consumi. Una presunzione, dice Scalfari, che non è una certezza. Molti beneficiari potrebbero, invece di spendere, risparmiarli quei soldi, investendoli in impegni monetari o tenendoli in contanti sotto il materasso per spese straordinarie che si presenteranno in futuro. E se fossero molti di quei 10 milioni di beneficiati, se fossero la maggioranza, i consumi aumenterebbero di poco. E allora, in qualche modo, dice Scalfari, questa non può essere che solo una scommessa. Facciamo i debiti scongiuri, così dice Scalfari. E intanto che noi facciamo i debiti scongiuri, cambia qualcosa anche negli Stati Uniti. Non siamo solo noi. Lo leggo dal Foglio, lo trovate anche sul Corriere della Sera, su altri quotidiani oggi. Provera classe media, ma questa volta non è la nostra classe media, sentite un po', è un'analisi del New York Times e riguarda la classe media americana, un'analisi sulla middle class negli Stati Uniti. Superati per la prima volta dai canadesi. Dopo decenni in cui il reddito medio degli americani superava in maniera stabile quello degli altri paesi industrializzati, la tendenza si è invertita. Dal 2000 al 2010 il Canada ha superato gli Stati Uniti. Gli americani più ricchi hanno staccato i loro omologhi globali, mentre poveri in Europa guadagnano di più rispetto ai poveri in America. La crisi della classe media, frutto naturalmente della crisi, ma anche di un sistema socialmente iniquo orientato alla manutenzione della schema dove l'1% prospera alle spalle del 90%. La ricchezza non abita più qui, è la fine di un'epoca superata nel benessere dai canadesi, scrive anche il Corriere della Sera, e perché? Per gli effetti della globalizzazione. Di certo anche questo cambiamento americano qualche peso lo avrà anche su di noi. Vicende italiane, ancora un altro sguardo invece ad un altro tema, un gioiello che doveva essere messo in vendita, che gioiello non è e che polemiche sta suscitando la vendita agli arabi. L'Italia Etihad in bilico, verdetto tra due giorni. La trattativa era saltata, ora aspettiamo la proposta di Etihad e poi giudicheremo, dice Matteo Renzi. Così sulla Repubblica di quest'oggi. Andiamo nelle pagine interne a leggere il retroscena che scrive Federico Fubini. Etihad pagherebbe anche più del previsto per l'Italia, ma una condizione tutt'altro che semplice per un'azienda la cui storia riflette quella del suo paese. Abu Dhabi vuole una pagina bianca, accetta di ripartire solo da lì. Si fa carico dei rischi futuri della gestione della ex compagnia di bandiera di un paese sul fondo della grande recessione, ma non vuole il bagaglio del passato. Non vuole i debiti, gli strascichi legali lasciati dal pasticciaccio del salvataggio dei capitani coraggiosi, le dispute fiscali, ed è meno quello che definisce le questioni regolatorie ancora aperte. E quindi ecco che per il governo italiano il problema è difficilissimo da risolvere. E poi altra questione nel retroscena di Federico Fubini: un mercato domestico sempre più dominato da compagnie low cost. Gli arabi vorrebbero che fossero messe ai margini, ma per le regole del mercato europeo è impensabile. Per parte propria il governo sta però procedendo a mettere sempre più a gara gli slot dei piccoli aeroporti sussidiati dagli enti locali. Ryanair o EasyJet non potranno più fare man bassa, anche se alla fine a pagare rischiano di essere, scrive Federico Fubini, ancora una volta i consumatori. 24 mattino. Gli affari segreti di Stamina, ripartiamo dal taglio centrale del Corriere della Sera, ma ovviamente la notizia c'è sui tutti i quotidiani e se ne parlerà ancora molto. Chiusa l'inchiesta sul metodo contestato, 20 indagati, medici pentiti dicono siamo stati influenzati dal clamore mediatico, ma a parlare sono i pazienti, oltre che i magistrati, come trattati come cavie, attrici al posto di infermiere. L'illusione durata 7 anni, il commento di Luigi Ripamonti. Che cosa resta di 7 anni di illusioni? Le regole violate, la tristezza di constatare che nella vicenda è stata data un'interpretazione talvolta discutibile del termine di compassione. Andiamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Le storie le troverete un po' dappertutto, ce ne sono molti ormai che parlano. Per nostro figlio era l'unica speranza, ci hanno ingannati, parlano i genitori di un bimbo affetto da atrofia muscolare, il calvario delle false promesse. Così dicono. Qui dei signori hanno preso in giro le famiglie, si sono presi gioco delle nostre illusioni. In cuor mio ero consapevole che quelle staminali non sarebbero servite a nulla. A volte però, questo è il nodo della questione, questo dicono questi due genitori, a volte però i genitori hanno solo speranza e di questo soltanto devono vivere. Sulla Stampa a parlare è Vannoni, che rilancia però, non ci sta, lui dice, le accuse che gli vengono mosse. Truffatore? No, dice lui, io meriterei il Nobel, sono una persona onesta, Stamina è premio da Nobel per la medicina. Chiede l'intervistatore su pagina 5 della Stampa, scusi Vannoni, per quale ragione il premio Nobel? Perché la metodica messa a punto da due scienziati ucraini può salvare la vita a 1,5 milioni di persone in Italia, chissà quanti in Europa, perché il sistema funziona davvero, abbiamo le prove, tutto qui, tutto documentato. E adesso che farà? Gli viene chiesto. Vado avanti con le infusioni, ci sono 180 giudici che le hanno ordinate, il 5 maggio a Brescia noi riprendiamo. La vicenda, dicevo, tutt'altro che conclusa. Costretti dai TAR ad andare avanti, ci sono delle falle nel sistema, dice intanto anche il ministro Lorenzin, che parla di due verità, quella giudiziaria, a cui però sottolinea, deve seguire quella scientifica, sono state alimentate troppe false speranze. E ancora, minaccia genitori di bambini, pazienti usati come cavie, cosa ha provato a leggere quei passaggi delle notifiche consegnati agli indagati di Stamina? Qui a parlare invece è il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, i capi di imputazione sono pesanti, ma del resto già nel parere del primo comitato era scritto a chiare lettere che le infusioni potevano provocare effetti anche gravi sulla salute. Così lo scambio di battute, le tre parti in causa, i genitori, Vannoni, il Ministero della Salute, dicevamo con il TAR che comunque farà riprendere le cure. E allora parlare, a intervenire sulla Stampa in questo dibattito è una ricercatrice italiana, senatore a vita Elena Cattaneo, che della ricerca ha fatto una ragione di vita, la drammatica commedia all'italiana. Leggiamo sempre dalla Stampa cosa scrive Elena Cattaneo. Voltare pagina ma senza dimenticare, imparando da quel che è accaduto dal punto di vista scientifico, medico, politico, giudiziario e mediatico. Scrive Elena Cattaneo, andiamo anche qui, pagina 27 della Stampa. Nel mondo si moltiplicano i venditori di illusioni che spesso con la frase terapia a base di cellule staminali, utilizzata come amo e millantata come panacea di tutti i mali, contrabbandano a caro prezzo trattamenti che nulla hanno di terapeutico, trattandosi nella migliore delle ipotesi di meri ma pericolosi placebo, spesso come nel caso di Stamina, senza che di staminali ve ne sia all'ombra. Quel che è successo in Italia non è che l'eco di una tendenza mondiale esplosa nei paesi con minima o nessuna regolamentazione a protezione della salute pubblica, situazione che interessa decine di migliaia di malati e considerevoli flussi di denaro verso i quali anche molti italiani purtroppo si muovono senza alcuna protezione. Il paese, scrive la senatrice a vita, accademica dell'Università degli Studi di Milano, Elena Cattaneo, il paese ha bisogno di mettere un punto, voltare pagina e scrivere una storia di eccellenza e cura con le terapie cellulari che le è propria e che attende solo di essere scritta. Non mi capacito di come tutto ciò sia potuto succedere, conoscendo bene le sfide, la qualità e i traguardi continui della straordinaria scienza di molti colleghi italiani. Così Elena Cattaneo. Voltiamo pagina, lasciamo le staminali, torneremo a discuterne per venire ad altre beghe più politiche. E allora, il Fatto Quotidiano. Torniamo alla politica, la partita del cuore, la partita di Emergency, non sa da fare, ieri Renzi l'ha detto chiaramente, in campo non ci sarà, Renzi Grillo ne resterà soltanto uno, scrive oggi il Fatto Quotidiano. In un monologo via Twitter il premier rilancia l'offensiva finale a quella che considera il suo unico avversario, hai sporcato la partita del cuore, non gioco più. Così Renzi che prende e se ne va, non gioco più, dice il premier sul Fatto Quotidiano. Oggi ovviamente ci si ritorna e l'altro tema di discussione politica, di bagarre politica in questi giorni, vi leggo il titolo di Libero, basta questo per capire che anche qui il tasso di polemica è altissimo. Il maggiordomo di Silvio si offre al signore di Firenze. Bondi scopre dopo 20 anni che il centrodestra ha fallito. Lui era solo, scrive tra virgolette Libero, il coordinatore. Il maggiordomo di Silvio si offre al signore di Firenze. Che succede? Succede che dopo Bonaiuti anche Sandro Bondi sarebbe pronto a lasciare Forza Italia e quindi anche qui le polemiche, le chiacchiere si sprecano. Andiamo sul Corriere della Sera dove è Tommaso Labate a raccontarci il retroscena. Qualcuno giura che un contatto tra Berlusconi e Bondi alla fine c'è stato, altri sostengono invece che l'ex cavaliere abbia mantenuto il proposito di non rivolgergli la parola, altri ancora parlano di una mediazione dei vertici del gruppo forzista al Senato. Di certo c'è che quando arriva la retromarcia di un Bondi che si dice frainteso e che conferma la fedeltà a Berlusconi, Berlusconi ha già la testa altrove all'avvio dei servizi sociali che ieri gli hanno provocato un rigurgito di malumore. E poi alla registrazione oggi di Porta a Porta prima delle 23, perché dovrà tornare ad Arcore e intanto perde pezzi in attesa di Arcore. Perde pezzi, ma pare che uno Berlusconi sia pronto a venderlo a caro prezzo. La Gazzetta dello Sport, clamoroso, Milan offerta da 500 milioni. Da Singapore, Lim rilancia con una proposta per rilevare il club, ma dalla Cina arriva anche un messaggio di Zhong Qingu, il secondo uomo più ricco del paese, anche lui sarebbe interessato. Insomma, Milan in vendita, a sentire la Gazzetta dello Sport pare proprio di sì. E a proposito di Euri, saluto Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno. Mi stanno prendendo in giro, ho fatto una papera prima e ho detto Euri e guarda, mi stanno massacrando. Ma perché aiuto. Tu evidentemente hai più disponibilità rispetto a quell'altro che di solito, che non nominiamo. È di la mattina. No, lasciamolo tranquillo. Diciamogli solo che c'è un'ulteriore precisazione del garante privacy sul condominio nelle pagine di Norme e Tributi, siccome lui si sta preparando per il compito in classe di lunedì, certo. Esatto, quindi che non gli sfugga questa cosa qua. E invece sì, di Euri, perché oggi è sul Sole il giorno del decreto IRPEF, come sai, quindi c'è una serie di pagine di spiegazioni sia nelle pagine iniziali con questo effetto degli 80 euro in busta paga e poi anche nella parte di Norme e Tributi per quanto riguarda le misure più puntuali sulle imprese, ad esempio le rivalutazioni e così via. Ma adesso non ti voglio tediare con queste cose, invece ti dico che su Casa 24 c'è un bel servizio di Vito Lops sull'erogazione dei mutui e sì. Il loan to value, che non, adesso non sto a precisarti cos'è, che comunque è una bella notizia, mi pare di capire. È una buona notizia, sì, è una buona notizia. Le banche cominciano, se la parte finanziaria non è troppo alta, ricominciano, hanno ricominciato a erogare credito per l'acquisto di casa, e questa è una buona notizia. Hai preso qualcosa di portoghese? Perché ne parliamo. Eccolo, ti aspettavo, ieri ce l'avevi detto, Lisbona torna sui mercati e hai portato bene. Insomma, diciamo che l'asta è andata bene, questi sono tutti buoni segnali, non sono mai consigli di investimento, mi raccomando. No, però, assolutamente. Bene anche i conti di Apple e Facebook, ne parliamo nelle pagine di finanza, attenzione. E poi, importante, due decisioni di tribunali sulla non punibilità penale per le imprese che non riescono a versare le ritenute o i contributi. Cioè i giudici dicono non può esserci reato se insomma uno non ce la fa proprio a pagare. Questo è molto importante per i nostri amici fiscalisti, ma diciamo è molto importante anche come tendenza giurisprudenziale. Ecco, poi lì però non ho trovato la tua foto. Di solito mettono la foto di quell'altro sciamannato, ma non mettono la tua, cara Anna. Non siamo in par condicio, mi lamenterò con appena torna. Anche perché insomma sarebbe più gradevole per me vedere la tua foto che non quella di Alessandro, che adesso sta trattando cose cinesi. Vabbè, anche oggi il caffè te lo devo pagare, ho capito. Va bene, più tardi poi allora ci vediamo molto volentieri. Hai visto come sono andati bene nella raccolta i fondi comuni? Perché ne parliamo nelle pagine di finanza. Sono ritornati a dei valori paragonabili a quelli di 15 anni fa, chissà che siano tutti segnali, germogli di ripresa li chiama qualcuno, chissà che questo sia da confermare, insomma. E che altro ti volevo dire? Beh, naturalmente vorrei mostrare la vignetta, come facciamo sempre con Alessandro. Possiamo far vedere la vignetta di Domenico Rosa? Guardate no? Tutti, mi raccomando. Ecco. No, perché è dedicata al decreto lavoro, che ha questo passaggio molto delicato, come sai, però anziché perderci in chiacchiere facciamo vedere questa vignetta, così diciamo è chiaro per tutti gli ascoltatori. Assolutamente. Mi sembra che la vignetta parli da sola in qualche modo, sempre nelle nostre pagine di commenti e dibattiti, come sapete tutti i giorni, la vignetta di Domenico Rosa. È il mio momento. È il tuo momento, Anna. Vai. È bellissimo. Vai. E allora, traffico. 24 mattino. Multa chi regala cibo ai poveri e fa bene. L'ultima del sindaco di Verona Tosi fa discutere ancora. Così scrive Libero, neppure l'esercito della carità dovrebbe fare a meno del buon senso, un principio semplice: chi regala cibo ai poveri verrà multato e Tosi va bene. Provocatorio sicuramente Libero, la notizia la leggiamo anche dalle pagine interne della Repubblica, una maxi multa a chi dà cibo ai clochard in piazza. Il leghista Tosi, sindaco di Verona, ad aver preso l'iniziativa, non è contro i poveri, dice, fatto sta che si pagherà fino a 500 euro. La ronda della carità, un fulmine a ciel sereno, quando all'arena inizia l'opera, non ci spostiamo. Che succede? Non è la prima volta, ci furono le ordinanze, i divieti nel 2009 di Gianni Alemanno contro i lavavetri, e poi a Pescara a gennaio 2010, chi chiede l'elemosina rischia una multa di 500 euro e una denuncia penale in caso di recidiva. E poi maggio 2013 l'ordinanza del sindaco Orlando a Palermo vieta le bancarelle nelle vie del centro. Novembre 2013 ordinanza shock del sindaco Emiliano Abari contro lo spaccio, niente soste di gruppo in piazza. Dicembre 2013 sequestro dell'elemosina a Bressanone contro l'accattonaggio davanti a chiese e cimiteri, e questa volta la polemica arriva a Verona. Il sindaco dice maxi multa a chi dà cibo ai clochard in piazza. E allora, già che siamo in tema di polemiche, ci avviciniamo anche domani, è il 25 aprile, come poteva non esserci la storia del 25 aprile e la nuova ennesima polemica. Andiamo ancora su Repubblica, scrive Alessandra Longo, bel paese, canto vietato. Si può intonare da un palco bella ciao il 25 aprile durante l'anniversario della liberazione 70 anni dopo? La risposta, perlomeno per Pordenone, perlomeno fino a ieri sera, era no. Il prefetto competente era preoccupatissimo dagli effetti destabilizzanti della canzone e ha voluto nei giorni scorsi il parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Risultato: Bella Ciao è stata valutata pericolosa da cantarsi, come aveva chiesto l'ANPI locale durante una cerimonia pubblica accanto all'inno di Mameli. Dal divieto alle polemiche, il passo è stato breve, lapidario. Un senatore PD che ieri aveva annunciato anche un'interrogazione al ministro Alfano per chiedere la testa del prefetto. Insomma, alla fine c'è stato un finale con ripensamento. Bella Ciao ripescata all'ultimo minuto come in una gara canora. Resta però il retrogusto amaro. E insomma, come poteva non esserci anche quest'anno la polemica dannata del 25 aprile. Così come polemica non manca anche per la cerimonia di domenica prossima che dovrà beatificare due papi, Papa Wojtyla e Papa Roncalli, il Fatto Quotidiano, i due papi santi e la ressa dei politici imbucati. Casta pia, corsa sfrenata per un posto in prima fila in piazza San Pietro, scrive il Fatto Quotidiano. Nonostante la scomunica di Francesco all'ultima messa, i parlamentari non vogliono perdersi la passerella legata alla beatificazione di Roncalli e Wojtyla e chiedono centinaia di biglietti, così stando a quel che scrive il Fatto Quotidiano. Pagano, Nuovo Centrodestra e Buttiglione 6 a testa, ma aver fatto richieste ci sono anche Renzi che andrà con la famiglia, Lupi, Mogherini, Boschi, aggiunge il Fatto Quotidiano. Razzi e Scilipoti andranno a vedere invece Teramo Messina. Insomma, fatto sta che però la storia è tutt'altra che chiusa. Oltre 200 richieste di biglietti, soprattutto per gli accompagnatori, così scrive il Fatto Quotidiano. Ed ecco, il Vaticano non sa dove metterli. I parlamentari sgomitano per un posto alla canonizzazione. La città dell'emergenza si prepara, i vigili minacciano lo sciopero, paga a Roma 7,8 milioni, altro tema legato a quello che succederà domenica, così il Fatto Quotidiano. Ma in tutto questo c'è anche chi a questa canonizzazione non ci sta. Sbagliato fare santo Wojtyla. L'attacco arriva niente meno che dal New York Times. E allora andiamo, lo riporta, andiamo a leggerlo a pagina 16 della Stampa, eccolo qui: da Wojtyla troppi silenzi sulla pedofilia, e questa è l'attacco che arriva dal New York Times. Non era un santo perché ha chiuso gli occhi sugli abusi sessuali commessi all'interno della Chiesa, così il New York Times rompe il coro di celebrazioni per la canonizzazione di Giovanni Paolo II. È un editoriale durissimo, scritto da Maureen Dawn, cattolica di formazione. Riconosce a Wojtyla di essere stata una figura storica della Chiesa, soprattutto per il ruolo svolto nel crollo dell'Unione Sovietica. Nello stesso tempo rende omaggio al suo coraggio intellettuale, ricordando che nonostante l'avversione al comunismo, una volta vinta la battaglia della sua vita, non fu tenero neppure con il capitalismo. A giudizio della Dawn, però, Giovanni Paolo II ebbe il torto di chiudere gli occhi davanti al fenomeno della pedofilia. Destinato alla gloria degli altari con Giovanni XXIII, è durissimo davvero il New York Times, sostiene che la sua canonizzazione è un atto di bilanciamento politico. Benedetto XVI ha voluto fare santo il suo predecessore, considerando un conservatore come lui, ma sapendo le riserve che esistevano, ha cercato di prevenirle, arrivando anche il Papa buono. Arrivano dagli Stati Uniti questi attacchi durissimi. E allora 7:52 minuti, 20 secondi, abbiamo tempo ancora per due notiziole velocissime. Allora, una tutta da verificare, ma sicuramente vi farà arrabbiare, allora andiamo a prenderla dal giornale. Le toghe si dimettono per salvare lo stipendio. Panorama svela: 12 giudici si sono prepensionati per evitare i tagli. Fuga col malloppo, scrive alla Corte dei Conti. Aria di smobilitazione, già 7 magistrati che hanno scelto di andare in pensione prima che i tanto temuti tagli alle retribuzioni pubbliche eliminino i loro stipendi e relativi trattamenti pensionistici. Altri 5 sarebbero pronti ad andarsene. E poi ultima notizia, chiudiamo, pochi secondi, però questa è un'altra notizia della quale sicuramente si discuterà. Una nuova proposta: il divorzio lampo si farà dall'avvocato, le cause senza giudici come in Francia. La riforma annunciata dal ministro Orlando, un provvedimento che, mutuato dall'esperienza francese, potrebbe arrivare breve con un disegno di legge o addirittura per decreto. Anche questo c'è sul tavolo delle riforme. Lasciamo i giornali, c'è GR24. 24. Ancora una volta vi ricordo, siamo ancora in tema festivo. Alessandro Milan e Giovanni Minolli nella prima parte torneranno da lunedì, quindi noi andiamo avanti fino alle 9.30. Abbiamo due temi di cui parlare questa mattina. Parleremo di tagli, dove trovare i soldi, le regioni ancora pronte a tagliare, vedremo, ne parleremo tra pochissimo. E poi parleremo anche di eurodeputati, chi mandiamo in Europa e per fare cosa, quanto e davvero contiamo alla vigilia delle elezioni europee. Restate con noi, c'è GR24 e poi torniamo subito dopo. 24 mattino. La rivolta delle regioni, impossibile tagliare ancora. Le 8:18 minuti, ancora una buona giornata da Anna Meglio. E dobbiamo tagliare, questa è l'unica certezza, i soldi vanno trovati, le regioni devono contribuire con 700 milioni al risanamento dei conti. Renzi ha promesso non ci saranno tagli alla sanità, ma l'80% dei bilanci regionali è speso in salute. E allora dove taglieremo? Oggi si riunisce la cosiddetta conferenza delle regioni, presidente contro presidente, qualche taglio bisognerà farlo, anche se, come scriveva ieri la Stampa di Torino, sentire i governatori, i tagli non se ne sono già fatti, non ce n'è uno che possa più tagliare. Tagliare dove? Sentiamo Renzi. C'è però l'ultima voce per l'acquisto di beni e servizi, 2 miliardi e 100 milioni, che adesso vi andrei a individuare, divise come? Divise in tre parti: gli enti locali, le regioni e lo Stato, ciascuno concorre per 700 milioni di euro all'acquisto di beni e servizi. In questa voce stanno i 400 della difesa per lo Stato centrale e altri 300. Le regioni e gli enti locali concorrono, anche le regioni a statuto speciale, il rapporto è 500 e 200 nel caso delle regioni. Questo intervento è un intervento che noi lasciamo alle singole regioni, ai singoli enti locali e ai singoli ministeri, anche per alcuni aspetti, cui però diamo 60 giorni di tempo e diciamo: se siete in grado di farlo voi in modo intelligente e non lineare, bene, se no interveniamo noi individuando le sproporzioni dei costi standard che via via andiamo a verificare con la pubblicazione online delle spese. Dove taglieranno, insomma, le regioni? 349-238-6666 per i vostri sms, numero verde 800-2400-24. Saluto intanto i nostri ospiti. Gianni Chiodi, presidente di Regione, Regione Abruzzo, buongiorno. Buongiorno. Pier Francesco De Robertis, responsabile redazione romana del Quotidiano Nazionale, autore tra l'altro di un libro che già la dice tutta, La casta invisibile delle regioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi del Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno. Che ve lo svelerò dopo, ha fatto qualche conto e secondo lui ci sarebbe invece molto da tagliare. Salutiamo innanzitutto, però cominciamo con Chiodi. Renzi ha detto: io non intervengo se ci riuscite voi. Vi vedete questa mattina, è corretto? Sì, ci vediamo questa mattina. Nessun problema per aprire un confronto col governo. D'altra parte le regioni in questi anni hanno fatto molto. Io devo dire che per quanto riguarda la regione che amministro, il nostro indebitamento netto si è ridotto del 30% in 5 anni, siamo al terzo anno per esempio per quanto riguarda l'equilibrio dei conti sanitari, il prelievo fiscale l'abbiamo ridotto l'anno scorso per quanto riguarda sia l'IRAP alle imprese che ai cittadini fino a 28.000 euro di reddito del 30%, e quest'anno lo riduciamo ancora del 25%. Quindi tutto quello che doveva essere fatto per quanto riguarda la spesa pubblica, riteniamo, per quanto riguarda la mia regione, ma anche altre molte regioni italiane, che si sia fatto. Il rischio qual è? Che una nuova compartecipazione a questo processo, diciamo che lo Stato sta cercando di porre in essere, che il governo nazionale sta cercando di porre in essere, può andar bene, però il rischio è che cadano questi tagli sulle regioni che hanno magari basate sulla spesa storica, che di fatto premia chi ha consumato di più e punisce chi ha risparmiato. Nel senso che ci sono regioni che hanno fatto un lavoro impressionante sotto questo punto di vista, magari altre no, e allora lì bisognerebbe stare. Ve la giocherete un po' a dadi tra regioni virtuose e no? No, temo anche un altro aspetto, che ci sia una furbizia in tutto ciò, perché nel momento in cui l'aggregato che viene scelto è quello degli acquisti dei beni e servizi, l'acquisto dei beni e servizi, dicendo che non si taglia la sanità, ma per entità di taglio così rilevante, che per l'Abruzzo, dico solo per la mia regione, dovrebbe essere intorno ai 20-25 milioni di euro la compartecipazione in questo senso, può avvenire nel momento in cui abbiamo messo tutte le spese a livello obbligatorio solo sulla sanità, sugli acquisti di beni e servizi sulla sanità. E quindi andremo sulla sanità. Ma guardi, di fatto è un modo surrettizio per arrivarci, perché vede, quando noi il nostro bilancio ordinario ormai è solo sulle spese obbligatorie, e che stiamo tra l'altro riducendo, perché riduciamo il numero di dirigenti, riduciamo il numero di dipendenti, chiudiamo i carrozzoni, chiudiamo le comunità montane, chiudiamo tutto quello che è giusto che venga chiuso, resta il bilancio l'80-90% che è la sanità, e somme così rilevanti possono essere trovate solo sull'acquisto. Cadi si va a finire lì. Tagliare nei dipendenti sugli stipendi, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Sì, l'abbiamo già fatto. Troppi dirigenti, anche questo già fatto? 10% in meno per quanto riguarda i dirigenti e 14% per quanto riguarda i dipendenti. Non è che li possiamo licenziare, dobbiamo attendere che per effetto del pensionamento vadano in pensione e non si riassumono. Non è una variabile, direi, molto sul quale si può incidere in maniera a piacimento, insomma, ecco. Allora, un altro ascoltatore ci scrive: ricordate quando prima del 70 si discuteva dell'istituzione delle regioni e si temeva il loro costo? C'era allora chi le subordinava all'abolizione delle province. Siamo diventati più vecchi e abbiamo sperperato. Pier Francesco De Robertis, quanto ci costano le regioni? O le regioni o le province, i conti come sono? Ma ora, le regioni costano molto, perché nelle regioni, come diceva il governatore Chiodi, c'è il conto della sanità, quindi non è la regione che costa. Se per assurdo le regioni non si occupassero di sanità. Dicevamo l'80% del bilancio è sanità, ne resta il 20%. In quelle a ragione, in quelle a statuto ordinario, perché poi nelle altre il conto è diverso. Voglio dire, se quelle... le regioni non si occupassero di sanità, la sanità costerebbe comunque, quindi è improprio dire che la sanità, le regioni costano, mi sembra alla fine sono sui 180-200 miliardi, non è quello il costo, perché lì dentro c'è tutta la sanità. Il problema è che secondo me, che in questo passaggio di funzioni, che specialmente con il titolo quinto c'è stato, di funzioni sempre maggiori dallo Stato alle regioni, sono aumentati i costi delle regioni, perché sono passati molte funzioni alle regioni, ma non sono diminuiti quelli dello Stato, cioè 2 più 2 ha fatto 6. Questo è il vero problema del decentramento che c'è stato. Non ha portato a dei risparmi, ma ha portato a una somma. A una moltiplicazione dei costi. Sì, e poi ci sono alcune riforme che dovevano andare a seguito di questo, ad esempio quella dei costi standard, che è sempre un po' lì a galleggio, non è finita e non è arrivata alla fine, e anche questo ha portato delle enormi diseconomie. Quindi l'ulteriore problema, il terzo che segnalo, è che non c'è un meccanismo sanzionatorio vero, efficace per le regioni che non si mettono in regola, che sperperano. E quello che dicevamo prima con Chiodi, questa mattina si vedranno i presidenti di regione, ognuno dovrà prendersi la sua quota di questo fardello di 700 milioni, in qualche modo se la giocheranno ai dadi tra le regioni virtuose e non virtuose, perché una ripartizione... Ci sono delle regioni non virtuose, in questo caso molto non virtuose, bisognerebbe avere il coraggio di prendere misure molto molto molto drastiche di sanzioni, anche politica, e questo è un problema, perché poi parliamo del Lazio, cioè non è parliamo del Lazio, se meno 644 milioni i conti del Lazio, meno 212 la Sardegna, meno 121 la Campania, l'Abruzzo è più 53, la Lombardia è uno zero netto. Il Piemonte è più 16, virtuoso c'è il Veneto, ci sono le Marche, di 6,8, di 21,6, parliamo appunto di un Lazio con un meno 644,4. Eppure c'è chi i conti li ha fatti. infatti anche qui ipotizzando che tutti fossero a zero come la Lombardia, se tutti spendessimo a testa quanto i lombardi si risparmierebbero più di 80 miliardi di spesa pubblica per i consumi finali. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, come siete arrivati a questa conclusione? Dunque, l'Istat fa delle elaborazioni molto utili per regionalizzare la spesa pubblica. Regionalizzare vuol dire che non è la spesa delle regioni, ma è la spesa di province, comuni, comunità montane, altri enti pubblici, anche le regioni. Se guardiamo soltanto alle spese appunto che passano dal territorio e vanno a beneficio dei cittadini delle regioni, noi la definizione di regione lo utilizziamo perché è comoda dal punto di vista amministrativo, effettivamente dobbiamo mettere in evidenza che al netto delle spese centrali, diciamo, dello Stato, quindi quelle che non c'entrano, che non hanno a che fare con il territorio, la Lombardia ha una spesa pro capite nel 2011 di 2.650 euro, la media Italia è di 3.216, con punte per esempio nelle regioni più piccole, nelle regioni meridionali. La Calabria spende 4.200 euro a testa, la Val d'Aosta 7.900, il Trentino quasi 6.000 euro. Ora, se tutti spendessimo a testa per le stesse cose, come la Lombardia è quella che è la spesa più piccola, avremmo un risparmio di 34 miliardi. Ma noi ci siamo posti anche un'altra domanda. Ma l'output pubblico, cioè i servizi pubblici che vengono forniti ai cittadini, sono uguali nelle diverse regioni? E allora abbiamo considerato 15 indicatori di servizio pubblico, dalla sanità ai servizi per l'infanzia, la raccolta differenziata, il conferimento di discarica e via discorrendo, sono 15, quindi non li cito tutti per non annoiarvi. Ecco, se consideriamo anche il livello di servizio e valutiamo la spesa pro capite sul livello di servizio, cioè per quanto i cittadini fruiscono realmente a fronte di quella spesa sostenuta, il risparmio potenziale sarebbe molto, molto superiore, arriverebbe agli 80 miliardi. Questo però è, come dire, un limite teorico che implicherebbe l'accettazione di servizi, certo, pubblici che oggi in Italia non sono adeguati. Gli 80 miliardi sicuramente sono un limite teorico, cerchiamo 700 milioni. Da 80 miliardi a 700 milioni, rifletteteci. Io vi... c'è la pubblicità, vi lascio riflettere anche un'altra cosa. Le regioni oggi si riuniscono, devono trovare la loro fetta, appunto 700 milioni per il risanamento dei conti. Sui conti correnti, scrive oggi il Sole 24 Ore, la tassa che verrà prelevata sarà 755 milioni. Questa è un'altra fetta che si cerca. Una piccola pausa e poi ripartiamo ancora a parlare di tagli. 24 mattino. Non siamo tutti uguali, ogni regione ha le sue particolarità, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. In Sardegna trasporti e sanità sono interamente a carico del bilancio regionale. E ancora bisogna considerare che la concentrazione territoriale di abitanti è diversa, è chiaro che ci sono molti cittadini, aumentano le economie di scala. 2.500 a testa, ma in Lombardia credo ci siano più teste che nei Friuli, ad esempio, per pagare i costi fissi. Allora, anche i nostri ascoltatori stanno facendo i conti. Mariano Bella, i conti che voi avete fatto però per le regioni porterebbero 80 miliardi di risparmi. Questa mattina le regioni si riuniranno per trovarne 700 milioni. Sì, quello è un limite teorico, ma quegli 80 miliardi andrebbero in larga misura riallocati, cioè per restituire ai cittadini servizi pubblici accettabili. Mi piace molto il fatto che gli ascoltatori però hanno colto perfettamente, mi pare da quanto diceva lei poc'anzi, hanno colto perfettamente il senso di questi conti. Ecco, le economie di scala. Allora noi abbiamo messo in evidenza che c'è poco da fare. Le regioni più popolose, ma le regioni in senso di territori fisici, quindi i comuni più popolosi, le province più popolose, le regioni più popolose, hanno economie di scala e quindi a testa spendono di meno, ma questo è una cosa che però deve fare riflettere anche su quei ragionamenti che vogliono l'accorpamento di enti pubblici, cioè non è che qui qualcuno è contro la pubblica amministrazione, perché come giustamente si diceva prima, degli sforzi sono stati fatti, questo va detto. Negli ultimi 4 anni l'attenzione è cambiata, le cose sono cambiate, i consumi finali e anche la spesa pubblica complessiva nel 2013 rispetto al 2012 è scesa, però si può fare molto di più. Economie di scala, quindi accorpamento di enti, è una cosa che si può fare e si deve fare. E poi c'è questa storia dei costi standard e dei fabbisogni standard, perché non si riesce a capire perché certe cose, tantissime cose, non sto parlando assolutamente soltanto di sanità, debbano costare il triplo, il quadruplo in certe regioni rispetto ad altre. Allora, io ringrazio Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, ci deve lasciare questa mattina. Grazie però per essere stato per noi, perché i conti intanto li abbiamo fatti. Chiodi, torniamo a lei con una punzecchiata però che arriva dai nostri ascoltatori, ma non solo. Quando parliamo di regioni, parliamo di sanità, parliamo di costi da tagliare, abbiamo tutti in mente però anche le inchieste delle varie regioni e delle spese, diciamo non proprio in servizi. Allora anche tutto questo? Ma sì, ma questo c'è sempre stato e stiamo parlando comunque di frazioni assolutamente marginali. Su questo c'è da fare, c'è da recuperare, c'è da stare più attenti, non c'è un bel dubbio. Però mi lasci dire, 80 miliardi di risparmio sulle regioni togliendo la sanità è solamente un esercizio teorico. Questo l'abbiamo detto, questi erano conti teorici. Secondo aspetto, il criterio della spesa pro capite, non ne possiamo più di sentire che una regione con 9 milioni di abitanti, quando fa le gare, riesce a spuntare dei prezzi migliori sulle siringhe. Il Molise, che ha 300.000 abitanti e fa le gare per 300.000 abitanti, non sfruttando l'economia di scala, ha costi certamente superiori. Ma al di là di questo, quello che conta è tener conto che le regioni, almeno per quanto mi riguarda, hanno fatto percorsi di riduzione della spesa pubblica enormemente più rilevanti dello Stato. Le dico subito, lo Stato oggi sta da anni non riesce a ridurre un euro di tassa. Noi abbiamo ridotto le tasse del 30%, abbiamo eliminato il numero dei consiglieri regionali, sono passati da 45 a 31, lo Stato non mi sembra che abbia ridotto il suo numero di parlamentari. Per quanto riguarda le attività che tengono il debito pubblico, lo Stato ha aumentato il debito pubblico, le regioni, la regione Abruzzo in maniera particolare, per quanto mi riguarda, l'ha ridotto del 30%. Allora, due sono le cose. Se lo sforzo lo facciamo tutti, allora è un discorso che può portare a un diciamo così, a una migliore situazione finanziaria del Paese. Se lo Stato intende nascondere quelle che sono le proprie incapacità di ridurre la spesa pubblica, che significano rischi di consenso, bisogna avere il coraggio di affrontarlo, il rischio del consenso, perché la spesa pubblica, guardate che c'è molta gente che quando si parla di spesa pubblica comincia a tremare, non ti dà più il consenso, perché ritiene che la spesa pubblica sia una delle questioni sulle quali magari poter fondare la propria sicurezza della vita, poter fondare il proprio lavoro. Allora bisogna avere il coraggio di insomma farlo. Un po' per uno non un po' per uno, bisogna fare bisogna accorpare. Ha ragione. Accorpare le regioni. Ma certo, allora io sono uno di quello che sostiene. E poi diminuiscono anche le poltrone, se vogliamo essere cattivelli. Ma, sì, ma le poltrone che diminuiscano, abbiamo eliminato 250, abbiamo fatto 250 nomine in meno, è possibile farlo. L'unico rischio, sa qual è? È che il cittadino, che è abituato normalmente a pensare che lo Stato sia una sorta di mucca da mungere per poter alimentare le sue questioni, dopodiché non apprezzi questo tipo di percorso, perché noi ne parliamo come un fatto assolutamente necessario, ineluttabile, inevitabile, sul quale ci concentriamo. Noi abbiamo chiuso 6 ospedali nella nostra regione che facevano 2,5 ricoveri al giorno, magari con 166 dipendenti, con primari che magari... E siete passati dalle regioni non virtuose alle regioni virtuose, sì, quindi okay, in qualche modo non è detto che si può fare. Apprezzi, no? E quindi siccome il consenso poi è quello che ti indirizza, se noi la Thatcher in Italia non sarebbe stata mica rieletta. Allora, il Lazio ha i numeri per fare economia di scala e quindi, scrive un altro ascoltatore al 349-238-6666, per Francesco De Robertis, e quindi... davvero, come dice Chiodi, chi risparmia non viene rieletto? Ma in genere è sempre così, ma voglio dire, Churchill vinse la guerra e non fu rieletto, quindi in genere il consenso, spesso il consenso non premia quello che si è fatto il consenso premia più un sogno, a volte anche delle promesse, è molto mobile. Sotto questo aspetto il governatore ha ragione. Credo anche che sia vero che le regioni hanno fatto, è vero che c'era molto grasso che colava e quindi sono state in grado di fare dei tagli più dello Stato, nel caso dei consiglieri c'era di più da tagliare, ma sì, poi ci sono anche dei meccanismi più flessibili, cioè meno rigidi, ad esempio nel caso del taglio dei parlamentari o dei consiglieri regionali. Il taglio dei parlamentari è tutta una variazione costituzionale che implica una serie di cose da mettere in fila nel tempo e sono molto più difficili. Il taglio dei consiglieri regionali è molto più facile, però c'è da ricordare anche questo, che le regioni non l'hanno fatto proprio a sponte il taglio dei consiglieri regionali, è stato lo Stato che glielo ha imposto, perché quando Tremonti glielo voleva imporre nel 2001 loro si sono rifiutate, quindi come dire non è stato un atto così volontario. Non è stato molto volontario. Quando Tremonti glielo impose, loro più o meno tutto, ora non mi ricordo se anche l'Abruzzo, però una decina di regioni si ricorsero alla Corte Costituzionale per lesa maestà, perché doveva essere un atto che non poteva essere un atto imposto. Poi ci fu lo scandalo Fiorito, si trovarono sotto scacco mediatico e allora il decreto Monti tagliò la testa al toro. Quindi insomma è anche vero che questo scatto di orgoglio fu subito, e quando doveva essere stato chiesto un anno prima le regioni si opposero. Chiodi, diciamo che c'è un ascoltatore che propone la regione Molise per accorparla alla regione Abruzzo. Poi certo, se dovessimo cominciare a parlare di regioni accorpate, anche lì nel paese dei campanili, probabilmente la discussione che verrebbe fuori non sarebbe così semplice. Davide da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sostanzialmente sono d'accordo con tutti gli spunti che avete dato voi, quindi l'accorpamento per cercare di portare in alto un attimino la soglia degli utenti che possono poi fare massa critica per gli acquisti, eccetera, eccetera. Secondo me occorrerebbe, al di là di questa dichiarazione di intento, uno scatto un po' alla Renzi anche da parte di tutte le regioni, cioè mettere davanti l'interesse nazionale, l'interesse perlomeno delle regioni, quindi fare un sacrificio magari solo per poter aumentare questo bacino di utenze che possono far numero. Quindi mi avete un attimo concentrato sull'intervento, se non questo mio, come possiamo dire, pungolo nell'andare in quella direzione. Volevo solo aggiungere una piccolissima cosa che sembra un po' una battaglia dei poveri, però ce l'ho qua. Allora, io sono un lavoratore dipendente, 55 anni quasi, eccetera, eccetera. Il mio ticket è 5,16, le famose 10.000 lire da una vita. Ticket intende i buoni pasto, per intendersi. Bravissima, esatto. Proprio. Mi sembra che le regioni, i miei colleghi che lavorano nelle regioni, abbiano dei ticket molto molto molto più alti. Ecco, in questo senso, se fosse possibile rivedere un piccolo sacrificio su quello, magari qualche soldino anche da lì. Qualche consiglio, va bene, questo è il consiglio di Davide da Milano. Pasquale dalla provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno. Senti, io provo a fare una spiegazione, diciamo, se riesco. A me, quando penso all'Italia, penso ad una classe di scuola, no? Dove gli studenti sono le regioni. Ora, lasciare che ogni studente studi per sé, il federalismo fiscale, se la classe è fatta di ragazzi che vanno meglio e ragazzi che vanno peggio, non è certo risolutivo del problema. Cosa voglio dire? Non è solo un problema economico quello che affrontiamo. Parla oggi, di regioni virtuose e non virtuose. Esatto. C'è un problema anche che va oltre, cioè di servizi, di modo di operare nell'amministrazione pubblica. Le buone pratiche che si sviluppano nelle regioni più virtuose, lo Stato le dovrebbe ricollocare nelle regioni meno virtuose. Insomma, lei ha l'idea l'ascoltatore di prima invocava tanti piccoli Renzi nelle regioni, lei dice se un modello funziona lo facciamo in altre. Poi in realtà non è così facile, perché ci spiegava prima Mariano Bella che le regioni grandi comprano tante siringhe, possono ottenere e spuntare un certo prezzo, quelle piccole un po' meno. 24 mattino. Allora, Rassicuriamo l'ascoltatore, ci ha chiamato prima da Milano. In Veneto i buoni pasto sono a 7 euro, ci scrive un altro ascoltatore invece evidentemente dal Veneto. E poi però il tema quanto pare sta accendendo il dibattito. C'è chi ci scrive: la massa critica sono i 60 milioni di italiani. Chiodi, io prima scherzavo dicendo ve la giocherete ai dadi. Sarà una guerra tra regioni per i tagli o è il momento appunto anche solo sul centro acquisti o su altri temi di fare appunto massa critica tra le regioni? Guardi, penso di averlo già risposto. Intanto una cosa, c'è un telespettatore che ha detto una cosa interessante, solo che il federalismo fiscale non c'è purtroppo. Esatto. C'è stato solamente il federalismo inteso come devoluzione di alcune funzioni alle regioni, ma senza dargli poi il potere e la responsabilità del prelievo fiscale, nel senso quindi principio di spesa ma non anche responsabilità degli incassi, e questo è stato un problema serio perché ovviamente ha spinto le regioni nel passato a spendere senza avere una responsabilità. Senza avere la responsabilità e quindi senza doverne dare conto. È 7 euro. Circa, 7 euro lo diciamo anche diciamo lì. Anche questo. E poi per quanto riguarda invece il resto, io ritengo che se quella dovesse essere l'entità dei tagli, vista la situazione dei bilanci regionali adesso, parte non sanitaria, se dovessimo andare a recuperare 20-22 milioni di euro su, per quanto riguarda l'Abruzzo, su per l'acquisto di beni e servizi, così dice il governo nazionale, e credo che l'unica cosa sia sulla sanità. Non è che noi abbiamo 320 milioni di euro di spese che non riguardano la sanità, per il resto sono sanità, e quindi 20 milioni di euro è una somma che sarebbe molto molto rilevante. Tenga conto che per quanto ci riguarda tutte le azioni che il governo nazionale ancora non fa, quindi Renzi ancora non fa, anche ma allora precedente. I famosi tagli alla sanità, noi l'abbiamo fatte. I famosi tagli alla sanità che Renzi diceva voglio vedere se trovate scritto se ci saranno i tagli alla sanità, alla fine ci saranno tagli alla sanità? Ma è inevitabile, un modo surrettizio, perché nel momento in cui l'aggregato che si è scelto è quello dell'acquisto dei beni e servizi, noi non abbiamo su 320 milioni che il nostro bilancio, faccio un esempio, la maggior parte sono dipendenti, trasporti pubblici, servizi sociali, piani sociali di zona, quindi un taglio di questa entità o si farà, le dico subito, o si farà ovviamente le regioni che possono farlo, lo faranno ancora in sanità, sull'acquisto dei beni e servizi, oppure sarà, e vedrà che alla fine si rischia proprio questo, che si toglieranno i fondi FAS, i fondi FAS che sono stati assegnati alle regioni per lo sviluppo, per le infrastrutture, per i processi insomma di investimento, a quel punto vedrà che saranno costretti a rinunciare a un quota parte di questo investimento. Però il problema, io non rifiuto la logica della riduzione della spesa pubblica, lo sa di cosa mi lamento? Che mentre la regione Abruzzo e altre regioni l'hanno fatto in maniera sensibile, lo Stato lo ha solamente annunciato. Anche l'osservazione che ha fatto poco fa Lucida, quando si è detto che alcune regioni hanno fatto alcune cose a seguito del decreto Monti, a seguito degli scandali, sì, ma ci sono anche regioni che l'hanno fatto prima e intanto l'hanno fatto. Invece il governo Monti non l'ha fatto, dice un processo costituzionale, ma anche noi abbiamo le nostre costituzioni, lo statuto sono costituzioni. Oggi in virtù di quelle norme abbiamo ritenuto per esempio di non fare ricorso, pur potendolo fare, avverso una decisione che imponeva alle regioni di fare alcuni tagli superando l'autonomia regionale che la Costituzione ci concede. E lì, ma questo lo Stato ancora non lo fa. E lì i tagli li avete fatti. Lo Stato non tocca lo fa, i tagli, lo Stato farlo, lo annuncia. E questo è la prima parte di questo tassello. Io torno però ancora ai tagli che a questo punto vi vengono chiesti. Ad esempio, questo famoso centro di acquisto, ammesso che per le regioni porti davvero a questi 700 milioni, perché quando parliamo del Lazio con un meno 644,4 milioni forse il centro d'acquisto non risolve tutto, ma ad esempio questo è un tassello che si potrebbe riuscire a costruire? Guardi, le dico, faccio un solo esempio per dire quanto è importante. Noi abbiamo scelto di fare alcuni acquisti in modo aggregato tra le ASL, che prima invece lo facevano in modo differenziato. La gara di farmaci su 320 milioni di spesa storica, noi ne abbiamo risparmiati solamente facendo la gara aggregata 60 milioni in 3 anni. E allora perché non si fa? Ma chiaro che si deve fare. Noi abbiamo, diciamola tutta, la resistenza 9 volte su 10, se non 10 su 10, non arriva dai soggetti politici, arriva da tutti coloro che attraverso, che nell'ambito della burocrazia, dei dirigenti, delle ASL, dei provveditorati, mantengono ruoli di potere e di discrezionalità, senza sfociare nell'illegalità ovviamente, che impediscono queste cose. Noi siamo riusciti per fare questa gara aggregata sui farmaci, io ho avuto le resistenze da parte delle farmacie e delle ASL, mica le abbiamo avute dai cittadini o dai politici. Quindi c'è tutto un meccanismo che nello Stato alimenta situazioni di gestione di potere, e questo vale anche nelle regioni, che molto spesso bisogna scardinare. Renzi, io sento dire, ci vuole il coraggio di Renzi. Renzi fino adesso ha dimostrato solamente il coraggio delle slide. Noi abbiamo dimostrato il coraggio dei fatti. Aspettiamo se ci sarà questo coraggio delle slide, si traduce intanto in riduzione del numero dei parlamentari, dei senatori. Vediamo se veramente lo Stato è in grado di fare la sua parte. Quando uno annuncia che fa 100 auto blu su 50.000, insomma, lo Stato fa la sua parte, questa la metà su 100. Mi pare che sia la posizione netta. Nel frattempo però, allora, resistenza o non resistenza, per Francesco De Robertis sarà questa la strada? Ce la faremo il centro unico di acquisti tra le tante? Credo che la strada è questa, come diceva il governatore. Ci sono poi una serie di resistenze a livello, diciamo, locale nel senso più ampio del termine. E poi appunto io vorrei ancora capire tutta la famosa riforma dei costi standard, che secondo me era la madre di tutte le riforme. Io, fosse per me, li metterei in Costituzione i costi standard. Vorrei capire a che punto sta, perché anche lì era una bellissima riforma che poi un po' i governi si sono morti e risorti, e ogni volta che muore e risorge un governo si riparte. Si ricomincia da capo. Sì. E poi si è persa nelle nebbie di chi a livello di burocrazia, a livello di mille resistenze particolari, che diceva anche Chiodi, le intenzioni ci sono, il meccanismo si mette in moto e poi si arriva ad un certo punto in cui si inceppa. Allora, io lo ricordo, allora questa mattina le regioni cominceranno intanto a riunirsi, c'è chi dice che sarà una battaglia tra regioni virtuose o meno, vedremo cosa succederà. Da trovare ci sono 700 milioni per il risanamento dei conti pubblici in regioni che l'80% del loro bilancio lo spendono in sanità. I tagli in sanità, insomma, forse sono un capitolo ancora non del tutto chiuso. Grazie allora a Gianni Chiodi, presidente della Regione Abruzzo. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a tutti i telespettatori, i radioascoltatori. Pier Francesco De Robertis, responsabile redazione romana del quotidiano nazionale La Casta Invisibile delle Regioni. Grazie Pier Francesco De Robertis. Arrivederci. Però noi andiamo avanti, siamo ancora in versione festiva di questo 24 mattino, andiamo avanti anche dopo il giornale radio per parlare di altre resistenze, di altre burocrazie, quelle europee. Ma intanto ci facciamo una domanda: chi ci mandiamo noi intanto in Europa? C'è il giornale radio, torniamo subito dopo. 24 mattino. È facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Italiani fannulloni in Europa, Marc Tabarella, deputato europeo belga, dato dell'assenteista così a Matteo Salvini. Che ci andiamo a fare in Europa? Ad un mese dal voto, partiamo da qui, sono le 9:08 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, 24 mattino che in questi giorni, ormai lo sapete, prosegue ancora un po', e allora ripartiamo da questo tema. Che ci andiamo a fare in Europa? Contiamo davvero per cosa andremo a votare, cosa fanno i nostri deputati? La classifica l'hanno pubblicata in questi giorni molti giornali, l'avrete letta, la classifica degli europarlamentari presenti a Bruxelles e a Strasburgo. La partecipazione è altissima per gli eurodeputati dell'Austria, del Lussemburgo, della Slovacchia. L'Italia al 24esimo posto su 28 paesi, con una presenza del 79,55% dei nostri europarlamentari. ma badate bene, non fa molto meglio di noi. Il Regno Unito all'80%, la Francia 21esimo posto 83%. Chi è più presente invece? Sono paesi come la Germania o l'Olanda. Insomma, che ci andiamo a fare al Parlamento europeo? Allora io saluto i nostri ospiti. Cristiana Muscardini, deputato europeo del gruppo dei conservatori e riformisti europei, buongiorno. Buongiorno. Che a Bruxelles e a Strasburgo siede ormai da un po' di tempo. E poi Matteo Lazzarini, autore del libro Eurolobbisti, come orientarsi a Bruxelles tra lobby e istituzioni europee, buongiorno. Buongiorno da Bruxelles. Un altro che Bruxelles lo conosce bene perché vive e ci lavora da una ventina d'anni più o meno nel settore della consulenza alle imprese. Allora, vogliamo raccontare un po' come è stata questa Europa. Muscardini, è vero che noi italiani ci siamo poco? Allora, prima di tutto, nel salutarvi, volevo anche comunque dire, specificare, io in Europa ci sono dal 1989, ho fatto 5 legislature ininterrottamente, non mi presento in queste elezioni perché ritengo che sia giusto provare a avere un ricambio all'interno del mio stesso, come dire, movimento, e per occuparmi di più della politica italiana, visto che un cosiddetto assenteismo degli italiani in Europa è dovuto alla incapacità italiana di dare informazioni corrette e puntuali su ciò che avviene al Parlamento europeo, dall'incapacità dei governi italiani che ci sono succeduti in questi ultimi 20 anni di rappresentare in maniera forte il nostro paese al Consiglio e di creare un raccordo utile tra governo, parlamentari italiani in Europa e Commissione. Perciò l'assenteismo cosiddetto, che non è tale perché va anche verificato rispetto ai singoli deputati e rispetto anche al fatto che, come lei sa, la legge italiana per le europee è una legge proporzionale, preferenziale, cioè bisogna scrivere il nome del candidato sulla scheda, e i collegi sono enormi. Nel caso del mio collegio, per 25 anni il nord-ovest è Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, e mentre gli altri deputati degli altri paesi conoscono il loro posto di lista o comunque la loro presenza in lista per tempo, certo, in Italia le liste sono state presentate praticamente il giorno stesso della scadenza, cioè all'ultimo minuto. Per cui, se l'Italia non è sufficiente, è una battaglia italiana e non è una battaglia europea, e questo è il difetto dell'Italia, che non ha ancora capito di essere un paese europeo e per questo non riesce spesse volte a ottenere ciò che sarebbe il suo diritto. Allora, vi do qualche numero, quale in classifica. Più presente al 7° posto tra gli eurodeputati italiani Sergio De Silvestris, poi c'è Andrea Zanoni, Fabrizio Bertot, Franco Bonanni. Abbiamo agli ultimi posti Gianni Barbagallia, è stato presente al 35% delle sedute, Clemente Mastella al 53%, Ciriaco De Michita al 49%, Sonia Alfano al 53%. Insomma, le classifiche le avete visti un po' dappertutto. Presenze, ma anche cosa si fa. Sentivamo prima lo sbotto del deputato belga contro Salvini. Matteo Lazzarini, gli eurodeputati italiani cosa fanno a Bruxelles? Sì, direi luci ed ombre sugli europarlamentari italiani a Bruxelles, perché effettivamente alcuni, come ha ricordato lei, sono assenti metaforicamente, ma spesso anche fisicamente, faticano ad adattarsi ad un ambiente molto diverso rispetto all'ambiente politico italiano, non parlano le lingue, non interagiscono e si vedono poco. Altri invece sono molto preparati, impegnati, competenti, molto presenti, e concordo con l'onorevole Muscardini perché è un po' lo specchio del nostro paese, la presenza all'Europarlamento. In Italia si sa poco dell'Unione Europea, si sa poco di come sono concepite, negoziate, approvate le leggi europee, le politiche politiche, i programmi, e ce ne si ricorda solo un po' sotto le elezioni. Del resto adesso il dibattito politico in Italia è molto polarizzato attorno al basta burocrazia, basta privilegi, e sono temi che hanno certamente una loro legittimità, ma andrebbero completati con un'altra cosa, con altri temi. Insomma. Con altri temi. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il nostro numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms, che per la verità stanno già arrivando. E un nostro ascoltatore, ad esempio, ha sollevato una questione marginale, ma c'è anche quelle. Mandiamo gente che ad esempio impara le lingue, Cristiana Muscardini, ma forse non è proprio solo una questione di lingue, è anche una questione di sapere cosa si discute nel posto dove si sta andando. Certamente le lingue aiutano. Io infatti ho ceduto il testimone a Marinella Colombo nella lista di scelta europea, che è la lista che io appoggio, ed è la lista liberale, sperando che anche in Italia il concetto di un movimento che sia liberale e nello stesso tempo capace di occuparsi anche del sociale abbia finalmente la possibilità di immaginare una politica un po' diversa dalla solita berlusconiana o renziana. In 25 anni al Parlamento europeo gli italiani vanno e parlano come? Guardi, alcuni parlano bene, altri parlano a fatica, altri non parlano. Diciamo anche che per esempio nel Parlamento europeo fino alla scorsa legislatura la lingua prevalente per esempio era il francese, da questa legislatura è l'inglese, e cioè da quando i tedeschi sono diventati ancora più prevalenti all'interno del Parlamento dell'Unione Europea, ovviamente non potendo imporre il tedesco, hanno sostituito il francese con l'inglese. Con l'inglese, però diciamo che io leggevo prima le presenze dei paesi, nelle presenze dei paesi i tedeschi sono all'ottavo posto, noi siamo al 24esimo. Ma i tedeschi infatti la fanno da padrone, perché sono perché molto in Europa ci vanno. Chi mandano i tedeschi in Europa? Ma guardi, devo dire anche un'altra cosa, gli altri paesi cercano di avere in tutti i gruppi politici deputati di lungo corso, per cui in un altro paese probabilmente io avrei avuto pressioni più forti ancora di quelle che ho avuto per ripresentarmi, perché per esempio questa legislatura è andato, si è ritirato Pöttering, che è tedesco, è stato anche il Presidente del Parlamento Europeo e aveva già fatto 7 legislature. Perché? Perché la conoscenza questo della Carta europea ansia di ricambio in Europa è nostra. Allora, secondo quello che ho potuto verificare io, in noi non scegliamo i deputati europei in base alla loro interesse e voglia di rappresentare l'Italia in Europa, ma rispetto alla aggiudicazione di un posto. Sono rari i casi in cui l'Europa è scelta come missione e come passione, e siccome non c'è futuro se non c'è un'Europa forte, stabile e in grado di avere una politica economica utile alle diverse opzioni che i nostri paesi offrono, qual è per esempio ancora uno dei grandi contenziosi europei? Il dissidio tra i paesi che sono produttori come l'Italia e i paesi che sono solo importatori come i paesi del nord. Da questo discende tutta una serie di regole a noi molte volte contrarie e appoggiate dalla Germania, che è un paese assemblatore, non più produttore come un tempo, e che appoggia le grandi lobby della distribuzione, che sono poi in Europa 3-4, perciò è evidente che c'è moltissimo da fare. C'è da fare e c'è da esserci. In Europa l'Italia ricicla i dinosauri della sua politica nazionale, scrive un'ascoltatrice. È questo il nostro problema, o come un altro ascoltatore scrive, il Parlamento europeo invece non serve a nulla? Matteo Lazzarini. Non è vero, il Parlamento europeo fa parte integrante del processo decisionale europeo. Quello che è poco chiaro agli italiani. Il processo decisionale europeo che arriva in Italia. Sì, certamente, perché alcuni atti sono direttamente applicabili, altri devono essere trasposti, però quello che è poco chiaro è che una legge tra virgolette europea è approvata se c'è l'accordo del Consiglio dunque degli Stati membri, del Parlamento, dunque dei cittadini, e della Commissione che ha il monopolio dell'iniziativa. Dunque, quando ci si lamenta Bruxelles ci ha imposto qualche cosa, ci dimentichiamo che i trattati li abbiamo scritti anche noi e li abbiamo firmati anche noi, e l'Europa non è che ce l'ha portata la cicogna. E poi il nostro ministro vota in consiglio, che ha l'ultima parola, dunque lo Stato membro, l'Italia anche, ha l'ultima parola. E forse i tedeschi l'hanno capito un po' più di noi. Sì, però in generale c'è un po' di preoccupazione per che sentiamo dire ai candidati attuali, ad alcuni, che per esempio una volta eletti modificheranno i trattati europei o li rinegozieranno, come appunto se fosse il Parlamento a scrivere o a negoziare i trattati, e pochi candidati stanno affrontando in modo serio i temi che interessano i cittadini. Il Parlamento rappresenta i cittadini, perché non si parla di protezione dei consumatori, dell'ambiente, della cultura, delle reti di trasporti? Sono cose di cui si parlerà invece davvero al Parlamento europeo. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno. Io ho chiamato per un po' per spostarvi la mia testimonianza. Io ho lavorato 12 anni in Europa, in uno degli organismi della comunità europea, e in questi 12 anni c'è una cosa che mi ha colpito, è la costante assenza di strategia. Cioè, strategia come sistema Italia? Assolutamente, io ho assistito regolarmente a situazioni in cui i delegati francesi, tedeschi arrivavano con un chiaro mandato, che avevano dei verticali con i loro vertici in cui potevano portare le strategie nazionali, a differenza di improvvisazioni tattiche e operative dell'ultimo momento, un ordine che arrivava da Roma e che doveva sostanzialmente rappresentare una meglio non identificata posizione. Facciamo politica italiana in Europa, gli altri fanno politica di paese. Ci ha raggiunto un altro eurodeputato, Sergio Silvestris, buongiorno. Buongiorno a voi radioascoltatori. Allora, tra l'altro eurodeputato che, almeno stando alle presenze, ne ha il record, 98,2%. A Bruxelles in questi quantomeno c'è andato in questi anni? Beh, non ci sono solo andato, penso di aver fatto comunque solo il mio dovere, niente di più di questo. È vero che l'Italia non riesce a fare sistema al Parlamento europeo? E tra un mese votiamo. Contiamo meno di quello che potremmo per alcune ragioni che molto velocemente cercherò di spiegare. La prima è una oggettiva distanza geografica. I miei colleghi tedeschi vengono a Strasburgo con la macchina, i miei colleghi francesi vengono a Bruxelles col treno e ci mettono 1 ora e 5 minuti. Noi a parte Cipro siamo i più distanti dall'Europa. Se il Parlamento europeo l'avessero messo a Napoli, insomma, ce la comanderemo un po' noi l'Europa. C'è una distanza geografica nostra dai luoghi di decisione. Il secondo problema è il sistema elettorale. Noi parlamentari italiani siamo eletti con le preferenze. E lo diceva colleghi... anche prima la Muscardini. Mm. Ah, no, non l'ho sentita, mi dispiace. I nostri colleghi di altri 27 paesi sono eletti con le liste bloccate, quindi vanno lì a fare i funzionari del loro partito e del loro paese. Noi dobbiamo tornare giù per conservare il consenso, il rapporto con gli elettori, anche perché siamo quotidianamente sollecitati a dar riscontro, ad incontrare l'elettorato. E quindi sono, diciamo, alcune di queste ragioni che oggettivamente ci fanno un po' meno deboli. E poi c'è un altro problema: in Europa spesso ci va gente che in Europa non ci vuole andare. Cioè, al Parlamento europeo ci sono state anche in questi 5 anni persone che ci sono andate per costruirsi poi altro tipo di carriere, e questo non va bene. Lì ci deve andare chi ci vuole restare 5 anni e chi vuole dedicarsi solo a quello, perché davvero c'è da perdersi un sacco di tempo. Quindi pensare quanti al ruolo dei suoi Parlamento... colleghi ci... se dovesse dare una proporzione, quanti dei suoi io colleghi ci vogliono andare? Ma non giudico neanche il lavoro dei miei colleghi, che sicuramente avranno lavorato tutti quanti meglio di me. Però una mia collega e mia amica, che stimo molto peraltro, che è Deborah Serracchiani, è venuta in Europa per poi andare a farla presidente della sua regione. Ha lavorato benissimo in Europa, ma ci ha lavorato 2 anni e mezzo, poi chi l'ha seguita dopo di lei ha dovuto ricominciare da zero, e purtroppo è una giostra quella su cui si sale per scendere al primo giro. Non ci vede, insomma, allora Muscardini era quello che diceva un po' anche prima: in Europa ci si deve andare per lavorare in Europa. Certo, come ha detto Silvestris, che saluto con simpatia e affetto, è assolutamente necessario che chi sceglie l'Europa lo scelga convintamente e vada a rappresentare insieme gli interessi italiani e gli interessi di un'Europa che deve diventare migliore. Ma secondo lei quanti dei capolista in queste elezioni andranno in Europa? Guardi, i capilista magari la fortuna di arrivarci ce l'hanno anche. Quanti di questi capilista, soprattutto se mi parla di alcuni personaggi, tra virgolette, sempre il personaggio lo metto, rappresentano una volontà di andare in Europa? Assolutamente io penso che non rappresenti, perché non credo che qualcuno smetterà di fare il ministro per andare in Europa o di fare anche il deputato nazionale a volte. Credo che sia ingiusto continuare a utilizzare nelle elezioni europee gli specchietti per le allodole. Se le preferenziali, alle quali io credo molto perché credo nella scelta libera dei cittadini, se le preferenziali devono avere un senso, lo hanno in quanto ci si misura tra candidati veri e non tra veri o presunti big. Io le faccio un esempio da quanto all'Europa è importante credere. Io nel 2008, c'è l'altra legislatura, sono stata eletta, io dico nominata perché le liste sono bloccate a Roma, un anno dopo c'erano le elezioni europee, ho ringraziato il mio partito che mi aveva candidato e ho detto che preferivo rimanere in Europa a servire l'Europa. Allora, Lazzarini, siamo tornati a questo nodo. Voi che in Europa ci state per fare in qualche modo gli interessi in Europa, la soffrite tutto questo che ci raccontavano Silvestris e la Muscardini? Sì, l'Europa è un'opportunità, non è un nemico da distruggere, è un'opportunità per le imprese, è un'opportunità per i cittadini. Il sistema Italia a volte è vero che non c'è, però è anche vero che su certi temi il sistema Italia funziona e su altri non ha ragione di esserci. Al Veneto conviene fare sistema con l'Austria, per esempio con la Slovenia, sul tema dei trasporti e non con la Calabria. La Liguria e il Piemonte hanno interesse a fare sistema con le regioni confinanti della Francia. Il Trentino Alto Adige, la provincia di Trento e Bolzano condividono la sede con il Tirolo austriaco, sono nella stessa sede. Il Friuli Venezia Giulia ospita la sede delle province dell'Istria croata e dell'Istria slovena. Dunque ci sono dei sistemi trasversali su alcuni temi. Dunque è vero che il sistema Italia è debole e non è così strutturato come dovrebbe o potrebbe essere rispetto ad altri paesi, è anche vero che su certi temi le alleanze sono appunto trasversali. Riusciamo a farle. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, io vi do 30 secondi per dirmi quelli che secondo voi sono i temi di cui non ci stiamo occupando in questa campagna elettorale per mandare davvero qualcuno a Bruxelles che nei prossimi anni invece potrebbe contare un po' di più. Lazzarini, cominciamo da lei, due temi. Gli appalti pubblici, già non se ne è parlato, è passata la nuova direttiva con meno procedure burocratiche per le piccole e medie imprese, meno carte, meno documenti, meno burocrazia, non ne ha parlato nessuno in Italia, questa direttiva deve essere trasposta nel diritto italiano, deve essere fatto il prima possibile per dare voce alle imprese, per semplificare l'accesso agli appalti, le reti di trasporti, perché questi sono veramente una necessità sia per il nord che per il sud Italia per ragioni diverse. E anche quelle passano da Bruxelles. Muscardini. Prima di tutto l'unificazione del sistema doganale, non possiamo essere un mercato interno veramente libero quando per sdoganare un container a Genova ci si mette 5 giorni e ad Anversa ci si mette un'ora. Questo vuol dire fare lavorare tutto il sistema degli altri paesi e non l'Italia, significa anche non controllare a sufficienza le merci che entrano, perché se 5 giorni è assurdo e pazzesco a Genova, un'ora certamente non è sufficiente per fare tutti i controlli necessari. Secondo tema. Secondo, quello del Made In, che il Parlamento europeo ha votato, ma l'impegno del governo a sostegno del Consiglio stiamo ancora aspettandolo. Anche questi temi che passano da Bruxelles, Silvestris. Direttiva Bolkestein, non è possibile che attraverso meccanismi di aste pubbliche altri investitori esteri vengano a comprarsi o a prendersi la gestione dei nostri lidi che esistono grazie al lavoro di famiglie italiane che per generazioni se ne sono occupati. Secondo tema, armonizzazione dell'accesso alle professioni. Non posso pensare che un giovane laureato in giurisprudenza in Italia debba fare 2 anni di pratica non retribuita, poi fare un esame che è un terno all'otto e dopo non averlo superato andare in Spagna dove in 2 ore si diventa avvocati iscritti all'albo. Basta con questa tratta delle professioni a vantaggio solo di chi c'ha i soldi per andare fuori dall'Italia a farsi iscrivere. Se posso dire in 5 secondi sì, un terzo tema, 5 secondi. Vabbè, non è proprio par condicio, ma glielo facciamo dire. Nell'Adriatico, nell'Atlantico lo pescano e il pescone rosso viene nell'Adriatico, si mangia i nostri pesci, viene ad ingrassare, poi va nell'Atlantico e va giù nel Mediterraneo e viene pescato. Non è possibile. Tonno rosso e a larghezza anche delle maglie delle reti, un impegno fortissimo nella prossima anche legislatura. Anche questo passa dall'Europa. Un nostro ascoltatore da Milano ci scrive: al Parlamento europeo bisognerebbe mandare i primi della classe, non gli ultimi, per contare in Europa. Tra un mese c'è il voto. Grazie allora intanto ai nostri ospiti, Matteo Lazzarini, autore del libro Euro Lobbisti, come orientarsi a Bruxelles. Grazie per essere stato con noi. Europarlamentari Cristiana Muscardini, Sergio Silvestris. I ringraziamenti dovuti a Alessandro Marcotulli, Cristian Goldoni, Miriam Lucchetti in regia, Peter Bescapè, ora c'è Pietro Lacorte con noi in regia. Grazie a tutti, torniamo ancora domani. Intanto un buon proseguimento con Radio 24, buona giornata da Anna Migliorati.